Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa volta parliamo delle riforme a costo zero, un libro di Tito Boeri e Pietro Garibaldi che sono con noi questa sera. Buonasera Tito Boeri. Buonasera. Buonasera a Pietro Garibaldi. Buonasera. Tito Boeri, professore ordinario di economia del lavoro, direttore della Fondazione De Benedetti, professore all'Università Bocconi. Pietro Garibaldi, professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano, direttore del Collegio Carlo Alberto. Ecco, questo libro segue un altro libro che trattava specificatamente il contratto di lavoro. Tra l'altro proprio la proposta di contratto di lavoro e contratto d'ingresso è pubblicato in appendice di questo libro. Allora, Tito Boeri, come è nato l'idea di questo decalogo, 10 proposte per tornare a crescere? È nata dal riscontro che in Italia, quando bisogna fare delle riforme, si trova sempre delle ragioni per non farle, e la ragione che spesso i politici si sono dati recentemente è che, di fronte al fatto che il nostro paese deve fare un processo di consolidamento fiscale molto ambizioso, un problema di finanza pubblica molto serio, dobbiamo rientrare dal debito pubblico, allora le riforme non si possono più fare. Noi in questo libro spieghiamo che invece le riforme si possono fare benissimo, proprio in un quadro in cui si proceda ad un aggiustamento fiscale molto ambizioso e necessario per il nostro paese, perché le riforme che fanno bene al paese sono delle riforme in gran parte a costo zero per le casse dello Stato. E tra l'altro aiuterebbero moltissimo proprio nell'aggiustamento fiscale, perché l'aggiustamento fiscale da una parte è legato al miglioramento dei conti pubblici, quindi tagliare la spesa pubblica, migliorare l'efficienza della pressione fiscale, ma dall'altro lato è fondamentale che ci sia anche la crescita dell'economia, quindi sono tutte riforme che vanno in quella direzione e sono d'aiuto al processo di consolidamento ed aggiustamento fiscale. Ecco, però in questo libro, in queste riforme si parla di investimenti, si parla di incentivi. Boeri, sono proprio a costo zero? Sono tutte a costo zero, difatti noi proprio lo sforzo che abbiamo fatto di elaborazione è proprio quello di sfuggire da queste richieste che spesso vengono fatte dalle parti sociali, dal sindacato piuttosto che dalla Confindustria o dalle singole associazioni di categoria, che ogni qualvolta si parla di fare delle riforme chiedono subito delle agevolazioni fiscali o della spesa in più. In tutte le nostre riforme non c'è spesa in più, addirittura alcune di queste riforme possono portare addirittura dei risparmi nella spesa pubblica. Ecco, vediamo molto rapidamente, di leggere proprio dall'indice, dal sommario, questo decalogo: investire nell'immigrazione, l'apprendistato universitario, il decentramento, incentivi al pubblico impiego, professionisti più liberi e ordini trasparenti, più lavori in famiglia, come non tagliare le pensioni dei giovani, il credito a chi vuole crescere, meno politici per sceglierli meglio e un partito per la crescita. Ecco, Pietro Garibaldi, se non è il problema finanziario, il problema fiscale a limitare la possibilità di fare queste riforme, che cosa frena queste riforme a costo zero? Ma chiaramente il costo zero si intende per le casse dello Stato, per la pubblica amministrazione, per le finanze. Ci sono un costo politico, un costo di decidere di toccare alcune posizioni, rendite di posizioni o situazioni di status quo che sono stratificate negli anni, e questo probabilmente crea degli effetti sui destinatari delle riforme. Pensiamo, se mai si dovesse ridurre il numero di parlamentari, una riforma di cui si parla molto, indubbiamente quei parlamentari che vedranno ridotto il numero di posizioni in Parlamento, per loro non è a costo zero, è una riforma in quel caso che addirittura porta dei risparmi, quindi questo è un esempio quasi paradossale, ma in generale riforme che riguardano una platea più grande di lavoratori, riforme magari sugli incentivi al funzionamento nel pubblico impiego, hanno degli effetti per i destinatari, quindi i vincoli che ci sono stati e che si continuano a trovare nel sistema sono vincoli di natura politica, perché un governo che mette mani a queste riforme deve in qualche modo avere la forza e capire e credere che per un interesse superiore, che è quello della crescita collettiva, bisogna in qualche modo fare queste riforme. Ecco, proprio a proposito dei parlamentari, voi scrivete: oggi in Italia sono molti più parlamentari per abitante rispetto ad altre democrazie anche più consolidate. Abbiamo un parlamentare ogni 60.000 abitanti contro uno ogni 250.000 altrove. Potremmo, in altre parole, permetterci di avere solo 250 parlamentari che potremmo scegliere con ben maggiore cura dei quasi 1.000 parlamentari attuali. Beh, non è ambizioso, Pietro Garibaldi, pensare che i politici si autoriformino e si autolimitino? Oh, certo, questa è una riforma non facile, è una riforma di cui però si parla tanto dei costi della politica. Senz'altro non diciamo, noi siamo ben consci che le riforme di cui diciamo siano ambiziose, ma ciò che ci ha spinto a scrivere questo libro, come diceva prima Tito Boeri, è che non bisogna scusare, trovare come scusa e quindi giustificarsi per l'inerzia con il discorso che non ci sono i soldi, c'è la crisi, non ci sono i soldi nelle casse dello Stato, non si possono fare riforme. La tesi di questo libro è che si possono fare tantissime riforme senza risorse economiche, ma con risorse politiche, spendendo certo capitale politico. Quella della rivoluzione dei parlamentari è una delle più difficili, infatti anche in questo periodo che di riforme si parla molto, non vi sono grossi accenni alla riduzione del numero di parlamentari. Certo, se ne parla molto, ma la pressione è ancora poca sul sistema politico. Tito Boeri, uno dei temi è quello del lavoro, lei è un grande esperto dei temi del lavoro, più lavori in famiglia, cosa vuol dire? Vuol dire il fatto che noi oggi abbiamo una struttura della tassazione tale da incentivare le parti che nella famiglia, le persone nella famiglia che hanno un peso minore sia sul piano contrattuale interno alla famiglia, sia sul piano della capacità di generare reddito, le si spinge a non lavorare. È proprio così che funziona, perché abbiamo queste riduzioni per il familiari a carico che proprio in qualche modo spingono soprattutto le donne a rimanere a casa e a non lavorare. Allora proponiamo nel libro di trasformare questi in incentivi al lavoro, quindi senza impiegare ulteriori risorse, perché sono le stesse risorse che invece di essere utilizzate per incentivare le donne a stare a casa verrebbero utilizzate per rimpinguare, aumentare i redditi di queste persone che più deboli in termini di capacità di generare reddito nella famiglia si mettano a lavorare. E sarebbe una cosa che aumenterebbe grandemente il potere contrattuale delle donne nelle famiglie italiane. Si noti che in Italia è l'unico paese in cui, sommando il tempo di lavoro, quello appunto retribuito, al tempo di lavoro tra le mura domestiche, preparare da mangiare, fare le pulizie della casa, eccetera, le donne lavorano di più degli uomini. Questo denota il fatto che le donne hanno un potere contrattuale minore all'interno della famiglia. Questa riforma darebbe loro più potere, più peso nelle scelte familiari. Ecco, una grande attenzione in questo libro è dedicata anche ai giovani, si parla delle pensioni dei giovani, si parla anche di dare il voto ai sedicenni. Qual è la logica di questa prospettiva, Pietro Garibaldi? Ma questo è inserita nel capitolo di creare un partito a favore delle riforme. Indubbiamente molte delle riforme riguardano le generazioni più giovani e quindi il rischio in effetti è che con una generazione di disoccupazione al 30%, il lavoro che è molto precario da quei pochi giovani che hanno il lavoro, si rischia di perdere un'intera generazione. Quindi bisogna trovare dei meccanismi per creare una coalizione tra giovani e meno giovani, quindi anche con i pensionati, per arrivare a una maggioranza, perché come dicevo prima il vincolo è quello politico per trovare una maggioranza per le riforme. Un modo piccolo al margine è quello anche di aumentare la platea di giovani che votano e quindi, estendendo il voto ai sedicenni, potenzialmente aumenta il numero di giovani che proporranno riforme in tal senso. Tra l'altro un'operazione simile è stata studiata in Austria in questo periodo. Ecco, siamo in conclusione, vorrei due risposte molto rapide, proprio sulla priorità. Ovviamente 10 proposte non si possono fare tutte insieme. Tito Boeri, quale vede la proposta, diciamo, di maggiore impatto e di maggiore urgenza tra quelle che voi fate? Ma io penso che quella che cerca di ridurre il dualismo del nostro mercato del lavoro sia davvero fondamentale in questo momento, perché abbiamo davvero una situazione di squilibrio fortissimo. di iniquità e di penalizzazione di qualsiasi investimento in formazione per i giovani. Questo penalizza la produttività del lavoro, riduce la competitività delle nostre imprese, renderà più difficile l'aggiustamento e quindi la crescita economica in Italia. Quindi forse questo è il terreno principale e spero che da parte delle forze sociali in Italia ci sia la comprensione della gravità del momento e che quindi il capitale politico, che spero verrà investito nel fare questa riforma, venga alla fine e sia in grado di portare a termine una riforma ambiziosa e superi davvero questo dualismo così forte che abbiamo creato nel nostro mercato del lavoro. Indubbiamente, con molte opposizioni, come abbiamo visto anche negli ultimi tempi da parte delle parti sociali, per non dire dei sindacati. Pietro Garibaldi, la stessa domanda, la sua priorità? Ma ovviamente sono d'accordo con Tito, ed è una riforma su cui abbiamo dedicato molto della nostra energia nel mercato del lavoro. Una seconda riforma che vedo poco sentita in questo momento è il funzionamento della pubblica amministrazione, perché ricordiamoci che più di metà del prodotto interno lordo avviene attraverso il funzionamento e gli incentivi della pubblica amministrazione e il governo non ne sta parlando a sufficienza. Quindi cambiare la regolazione, il modo in cui funziona la pubblica amministrazione attraverso una responsabilizzazione dei dirigenti e delle singole unità e attività sarebbe un passo molto importante. Nel libro dedichiamo parecchie pagine. Forse ci eravamo illusi che la riforma della pubblica amministrazione sarebbe stata già fatta in passato. È un po' un'illusione. Grazie a Tito Boeri e a Pietro Garibaldi, autori del libro Le riforme a costo zero, 10 proposte per tornare a crescere, di editori Chiare Lettere. Sono 160 pagine per 13 euro. Io ringrazio anche Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, e l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.